Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, dunque, da martedì scorso sappiamo che il 27% dei contribuenti non paga le tasse. È un palese ossimoro. Quello che più colpisce è che questo numero sia simile ad altri. Il 30% della nostra economia è in nero e l'evasione fiscale è stimata in un terzo del reddito annuale prodotto. Depurato di ciò, il dato del 27% dovrebbe preoccuparci in quanto sintomo di vera povertà. Sono un dirigente d'azienda in pensione che ha visto il primo fondo previdenziale integrativo, detto FIPDAI, dissolversi nel 1990, quando mi venne restituito il 20% di quanto avevo versato dall'84 al 90, senza alcuna rivalutazione monetaria. Il secondo fondo, il Previndai, sorto sulle ceneri del precedente, al momento del riscatto delle somme versate ha provveduto a trattenerne il 30% come tasse. Ne rimasi stupito, perché ogni altra forma di risparmio sarebbe stata tassata al 12,5%, come avviene attualmente per ogni rendita finanziaria. Oggi sui miei redditi pago il 33% di tasse e sono contento di poter contribuire con ciò ai bisogni dello Stato. Ero favorevole all'articolato discorso che fece Padoa-Schioppa, ricordato ora soltanto con la frase «Le tasse sono bellissime». Egregio direttore, sì, sono ancora totalmente d'accordo con lui, perché uno Stato si regge sulla mutualità dei suoi cittadini, a prescindere dal loro orientamento politico. Se pagheranno tutti, pagheremo tutti di meno. Le chiedo però quando potremo vedere l'applicazione di due sole aliquote, 23 e 33%, come aveva proposto Silvio Berlusconi nel suo patto con gli italiani del 2001. È l'unica speranza che nutro per veder migliorare la mia situazione finanziaria e immettere soldi nel mercato. Ci riuscirò a breve oppure no? Agostino. Caro Agostino, temo che l'obiettivo delle due aliquote, con quella massima al 33%, sia da collocarsi tra i sogni e le illusioni. Ma non per motivi economici o di politica fiscale. Molto probabilmente un sistema più semplice, con minori detrazioni, con aliquote più basse, potrebbe garantire un gettito perlomeno simile a quello attuale. Il motivo è essenzialmente ideologico. C'è ancora una mentalità diffusa secondo cui chi produce reddito, chi guadagna più della media, chi ottiene guadagni significativi, sia in qualche modo da punire, perché non può che aver strappato questi guadagni agli altri. Ma in compenso, con aliquote troppo alte e con procedure troppo complesse, si offre anche un alibi ad un'evasione fiscale che resta in Italia sicuramente alta. Come uscirne? Probabilmente con un po' più di coraggio da parte della politica. Lo stesso ministro dell'Economia ha richiamato nei giorni scorsi la necessità di semplificare il sistema fiscale. Un'analisi che non può che essere anche una promessa. Io non so se Bertolaso sia corrotto e frequentatore di signorine. Tuttavia, le sue dimissioni sono un'ovvietà. Il settore di cui è a capo mostra un livello di irregolarità piuttosto plausibile, visto che sono stati avallati degli arresti. Le intercettazioni pubbliche sono una brutta cosa, ma ne spiegano le ragioni. Certo, le responsabilità personali, eventualmente penali, non sono ancora tutte chiare e andranno accertate, ma non si può negare una responsabilità politico-manageriale. A chi toccava la vigilanza sulla correttezza delle procedure e la regolarità degli appalti? Bertolaso sarà pure un servitore leale verso lo Stato e fedele alla famiglia, ma se la corruzione non lo coinvolge direttamente, direi che gliel'hanno fatta sotto il naso. Qualunque politico, funzionario internazionale o manager d'azienda privata lascerebbe la poltrona nel silenzio assertivo generale e per molto meno. Concordo sulla vergogna delle intercettazioni rubate, tuttavia non vedo come la stampa avrebbe potuto censurare se stessa, come potesse rimanere segreta un'indagine che ha previsto arresti e che interessa funzionari pubblici, amministratori di denaro pubblico. Sulla giustizia a orologeria, in un paese in cui gli impedimenti istituzionali si sprecano, vedi elezioni e preelezioni, summit internazionali, promulgazione di leggi, eccetera, propongo l'istituzione di un periodo contingentato in cui i magistrati possano rivolgere le loro attenzioni investigative su politici, funzionari e relativi amici e parenti fino alla terza generazione. Qualcosa di simile al carnevale Semel in anno licet justitiam petere, cioè una volta l'anno si può chiedere giustizia. Elena Lecco. Non capisco capisco perché nessuno inquadri la questione dell'inchiesta su Bertolaso con la storia dell'inchiesta stessa. Non è un'inchiesta arrivata dal nulla. Nasce molto tempo fa e molto lontano, per la precisione dalla Sardegna. Nasce dalle indagini sull'area di Castello Firenze. Da un'intercettazione l'inchiesta ha raggiunto prima Roma e poi i progetti per il G8 alla Maddalena. Nel mirino sono finite anche alcune grandi opere fiorentine. Se i PM sono arrivati alla Maddalena e al G8 e quindi a Bertolaso è perché l'indagine li ha portati lì. Non capisco perché si debba gridare alla persecuzione senza prima informarsi sul merito dei fatti. I soli che potranno dire se Bertolaso è o non è colpevole di aver violato la legge. Basta leggere un nome famoso che tutti si sentono obbligati a schierarsi, come se si trattasse di una partita di calcio. E come sempre, tutti bravi a dare opinioni sulla base di pochissimi fatti e informazioni, e solo in pochi si spingono oltre per informarsi prima di esprimere giudizi. Marta. Nego. Sapere l'accusatore Travaglio impermalosito mi provoca una certa soddisfazione. Questa volta il sospettato è lui. Ombre offuscano la sua integrità e gli tolgono un po' di spocchia nel criticare e giudicare gli altri dall'alto del suo piedistallo che lo fa sentire un semidio. Non accetta le critiche sui suoi comportamenti, ma si prende ogni volta la libertà di sparare a zero sugli altri, sicuro di proclamare la verità e di insegnarla a noi. Ma non lo sa che siamo in periodo di par condicio? Giulia. Guardando i primi mesi del 2010 si possono trarre le somme del 2009 definendolo un annus horribilis, non solo per la crisi economica e per i suoi effetti sulla vita dei cittadini, ma soprattutto per le mancate riforme di cui necessitava e necessita il Paese. Governo, opposizione, organi di informazione sono stati intenti per tutto il 2009 a occuparsi di polemiche e scandali etico-sessuali riguardanti i potenti di turno, disinteressandosi dei problemi reali dell'Italia, burocrazia, corporazioni e intralci alla libera concorrenza. Il risultato è semplice quanto disarmante. L'Italia è oggi meno competitiva rispetto a quando è iniziata la crisi e non potrebbe essere diversamente, essendo il sistema Italia un elefante pesante, costoso e inefficiente. La pubblica amministrazione crea una burocrazia che intralcia il libero mercato con regolamentazioni e procedure lunghe e inutili. Il mercato è imbalsamato da corporazioni, il cui unico intento è il mantenimento del loro potere di casta. Le riforme da adottare erano e sono a costo zero per il bilancio dello Stato. Riorganizzazione degli uffici statali con conseguente taglio del personale. Riforma del sistema fiscale, sia nelle aliquote che nel sistema di riscossione e calcolo. Liberalizzazione degli albi professionali. I primi dati del 2010 sono chiari. L'Italia è il paese che ha pagato meno la crisi, grazie al paracadute, ma al tempo stesso è l'ultimo paese che beneficerà di una futura ripresa economica. Vi sarà una minoranza del paese che beneficerà della prossima ripresa, ma il paese nel suo complesso rimarrà a stagnare come avviene ormai da due decenni. Il 2009 è stato un annus horribilis non solo per colpa del governo, ma per colpa dell'intero paese. Disabituato a lottare, ha smesso di sperare e di credere in un futuro migliore. Massimiliano. Egregia redazione. Vorrei sottoporre all'attenzione dell'opinione pubblica un lento ma inesorabile e silenzioso cambiamento che ha già fatto spendere molti quattrini a vari milioni di cittadini italiani. Il passaggio obbligatorio dalla televisione analogica a quella digitale terrestre è un argomento che è stato del tutto sottovalutato dai quotidiani e anche colpevolmente da qualsiasi associazione che rappresenti e che difenda gli interessi dei consumatori. In Italia il passaggio al digitale terrestre non è una scelta, ma una vera e propria imposizione da parte dello Stato. Nei fatti non si fornisce al cittadino una maggiore scelta di canali televisivi e dei relativi contenuti, ma si spegne per legge un sistema di trasmissione per passare a un altro più costoso, tecnologicamente più avanzato, ma il cui segnale non riesce ancora a coprire tutto il territorio. Questa scelta avrebbe avuto un senso se il digitale terrestre fosse un mondo meno oneroso per ricevere anche le trasmissioni satellitari, ma sappiamo già da ora che i decoder per il satellite e per il digitale terrestre sono diversi e non compatibili. Questa scelta potrebbe avere una reale e profonda ragione culturale se con il digitale terrestre si potessero vedere tutti i canali del servizio pubblico degli altri stati dell'Unione Europea in modo da incentivare la conoscenza delle altre principali lingue europee. E invece pare proprio che il digitale terrestre sia soltanto un escamotage per aumentare le frequenze disponibili e quindi i canali a disposizione dell'ignaro cittadino, e spartibili da parte del sempre presente oligopolio televisivo italiano targato Rai, Mediaset, La 7 e Telecom Italia. Mario. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.